Ora basta con la strega, che felicità, dalla vecchia prigionia liberi noi siamo. Ora basta, quella strega non ritornerà, questa bimba ghiottoni ha dato libertà. Su, venite finalmente tutti a festeggiare questo evento straordinario che ci esalterà. Su, venite finalmente tutti a festeggiare, è la gioia di cantare viva libertà! Viva!